Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno cari amici e benvenuti, sono le 11:10, oggi una puntata dedicata a chi ama il mare e se lo gode non solo stando comodamente seduto sotto l'ombrellone ma praticandolo, diciamo così, da un'altra prospettiva. Voi a quale dei due profili appartenete? Siete i tipi da spiaggia o da vela? Questa è la sfida di oggi che come sempre ci giocheremo insieme al dottor Franco Confalonieri che è qui in studio con me. Dottore, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Lei da che parte sta? Subito in difficoltà. Io sto prevalentemente dalla parte della spiaggia. Nuoto molto, questo sì. Nuoto molto, quindi lo pratico in termini di nuoto. Lo pratico un po' meno nei termini di cui ne parleremo oggi. 824 0024 se la vela la praticate o se vorreste magari provare magari quest'estate un corso di vela, i messaggi al 349 238 6666. Dottore, però chi dice vela dice mare, vento, sole, natura, tutti dicono che sia un'esperienza magnifica, che ti mette un po', no, in pace con te stesso, ma è importante metterci d'accordo anche sui ruoli, perché non ci si improvvisa, e sui termini da usare, perché sappiamo che la vela ha tutti dei termini ben precisi. Oggi i Turbotabis continueranno il giro del mondo in barca vela. Faccio il capitano. Io salvo gente. Io il mozzo. Io prendo il sole. Allora siamo saliti sulla nave. Sì. Qual è la prima cosa che facciamo sulla nave? Lo dico io. E dillo tu. Vomito. Ma che vomito? Mettiamo i braccioli. Mamma, le braccioli. Allora issiamo le vele, guardiamo la bussola e grazie al vento da babotto puntiamo dritti verso il mare aperto. Ma bravo Lana, complimenti. Ragazzi, ci saranno almeno 10 nodi. Cosa dobbiamo fare? Usare il balsamo. Ma no. L'ammorbidente. Ma la piastra. Ma quale piastra? Quando parlo di nodi parlo di vento. Allora è meglio farsi la coda. Ma quale coda? Ragazzi, qua siamo fermi. Forza, mano alle trizze. Dottor Confalonieri, non rida però così tanto, perché dobbiamo anche un po' parlare oltre che ridere, però in effetti era molto divertente, non so se i nostri ospiti di oggi l'abbiano apprezzato, però era davvero divertente. Allora, andare per mare un po' come andare in montagna è una cosa appassionante, ma non si scherza, insomma non ci si improvvisa capitani, ed ecco perché abbiamo chiesto aiuti. Abbiamo in linea con noi Marzio Braida, direttore della scuola vela Tito Nordio di Monfalcone, benvenuto. Grazie a voi. E in linea con noi abbiamo anche Gabriele Olivo, velista professionista, buongiorno a lei. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Vi dico già che nel corso della trasmissione mi scapperà il tu, ma non importa, vero? Poi per mare ci si dà sempre del tu. Certo, assolutamente, bisogna darsi sempre del tu. Ecco, allora dottor Confalonieri, ci possiamo allargare. Va, no? Bene. Allora, come sempre succede, chi è appassionato di uno sport tende a decantarne gli aspetti positivi, vantaggi, benefici, e indubbiamente la vela ne ha molti. Se poi la vela, oltre che una passione, diventa una professione e per di più di grande successo, gli aggettivi si sprecano. Gabriele, puoi iniziare tu a scatenarti? Beh, sì, io ho la fortuna di aver fatto della passione, della mia passione, un lavoro, per cui per me la vela ha molto più di un significato, no? Non è solo una cosa che faccio ogni giorno, ma è proprio una cosa che mi riempie sotto tutti i punti di vista, sotto tutti gli aspetti. E c'è un po', ecco, il luogo comune da sfatare è quello di che la vela è uno sport per persone benestanti o persone con un certo tipo di facilità. Non è vero, perché alla fine chiunque può praticarlo e chiunque può iniziare con una scuola vela, ce ne sono molte in Italia, ce ne può iniziare in qualsiasi momento e fare poi di questo percorso la propria vita, ecco. Marzio, la vela però ha anche dei limiti, delle controindicazioni, uno sport che in teoria affascina tutti, Gabriele diceva in fondo è un po' per tutti, ma lasciando al dottor Confalonieri gli aspetti più prettamente medici, tu puoi aiutarci a capire se ci sono persone che, lasciami dire, per carattere non sono tanto portate. Ma io posso darvi un'informazione che anche questo, come diceva Gabriele, possiamo sfatare il mito, perché anche dal punto di vista caratteriale, i ragazzi, se frequentano una scuola di vela, possiamo dire che questa scuola di vita possono forgiare il loro carattere, e soprattutto i genitori li ritroveranno molto più autonomi e più forti. Non ci sono controindicazioni fisiche e neanche psichiche, assolutamente, anche perché ormai il proliferare delle scuole di vela in Italia sono numerose, e addirittura sono organizzate come dei centri estivi, come possono essere organizzati a terra con il basket, con la pallavolo, con il calcio e altri. Quindi diciamo che tutte le scuole vele in Italia sono organizzate proprio come dei centri estivi, o ancora meglio nel college, così come possono trovare dei benefici in questi college, come dicevo prima, dal punto di vista del carattere e dell'autonomia di questi ragazzi. Dottor Gonfalonieri. Bah, controindicazioni, diciamo che... Anche indicazioni, eh? Sì, adesso siamo qui, stiamo già facendo i grandi elogi. Indubbiamente è uno sport che richiede, se praticato con continuità, un impegno muscolare particolare, un impegno muscolare prolungato, delle sollecitazioni a livello articolare, a livello della colonna, particolari ancora e specifiche. Quindi, indubbiamente, per cominciare, come diceva giustamente Marzio, non esistono controindicazioni. Per continuare, per farlo in modo agonistico continuativo, bisogna stare un attimino attenti a quelle che sono le proprie caratteristiche strutturali, le proprie caratteristiche posturali, ed eventualmente riequilibrarlo con una ginnastica specifica. Questo soprattutto se si fa nell'età della crescita e se si fa in modo continuativo. Se no, direi che controindicazioni particolari non esistono, se non forse, e magari ne parleremo più tardi, una propensione genetica e quindi legata a particolari caratteristiche al mal di mare, che può ovviamente creare una controindicazione di fatto alla pratica della vela. Gabriele, tu hai iniziato da bambino, da ragazzino, e soprattutto cosa ti ha fatto capire che questo tipo di sport sarebbe diventato la tua vita? Beh, è un po' difficile sapere che cosa è stato, no? Esatto, sicuramente io ho iniziato casualmente proprio alla scuola vela Tito Nordi a Monfalcone, ho iniziato proprio con Marzio, che era il mio istruttore, anche lui era un po' all'inizio, lui è un po' più grande di me, ma era pur sempre il mio professore. Tornando proprio al discorso dell'autonomia e della severità, diciamo tra virgolette, di questi corsi, sicuramente è stato un esempio per me, per cui sono cresciuto lì, e poi man mano, visto che la cosa mi piaceva, fin da piccolo facevo altri sport, però man mano che crescevo dicevo, beh, questa è una cosa che mi piace stare al mare, mi piace avere l'orizzonte aperto, no? Non essere costretto ad avere una visione limitata da edifici o montagne, quindi ecco, quella rilassatezza che si prova quando si è al mare mi piaceva la cosa. Poi l'agonismo, io sono una persona molto agonista di natura, mi ha portato poi a farne una scelta di vita. Ho studiato in Inghilterra Yacht and Power Car Design, che dicono essere l'università migliore al mondo, e da lì poi sono continuato. Hai veleggiato verso il successo, come si dice. Le cose verso poi, insomma, fino a dove sono arrivato adesso. Ecco. Senti Marzio, però noi stiamo parlando di ragazzini, ma si può imparare ad andare in vela anche quando non si è più ragazzini? Insomma, una persona sui 40 anni, 30, 40 anni, che decide che magari vuole non solamente godersi il mare nuotando, prendendo il sole, ma facendo qualche cosa d'altro, guardando proprio la spiaggia da un'altra prospettiva, può farlo, oppure è un tipico sport che si impara da piccoli, oppure alla fine non si impara mai? No, assolutamente può farlo, perché se possiamo pensare che un adulto, se si dovesse avvicinare per la prima volta a una disciplina come il basket, avrebbe un po' di difficoltà certo, a di 40 anni, mentre la vela, con gli strumenti, con le imbarcazioni, con le tecniche adesso, assolutamente può avvicinarsi a, possiamo dire, a qualsiasi età, anche perché quella che ha detto lei è un'età dove affrontano i primi charter, le prime patenti nautiche, e magari perfezionano anche le loro abilità in altre scuole di vela successivamente a queste patenti o queste crociere, diciamo, migliorando quelle che sono le tecniche di navigazione, anche a un'età non adulta, anche su imbarcazione dove richiedono alcune doti di equilibrio. Dottore? Ma io volevo un po' coinvolgere gli ascoltatori, certo, che ormai è diventata una specie di fissazione, tormentone. Brava, e con le mie domande. E allora oggi vorrei, da un lato, fare una domanda un po' provocatoria, perché sennò facciamo solo l'elogio della vela. e quindi sentire se qualcuno ha avuto esperienze negative, magari ha cominciato e le cose non sono andate come volevano e ha abbandonato, quindi capire che cosa non ha funzionato, perché abbiamo provato, perché siamo rimasti delusi e abbiamo abbandonato questo sport di cui stiamo parlando così bene. E poi naturalmente invece lasciamo spazio anche a coloro che amano la vela, la praticano, e sarebbe bello che ci telefonassero oppure ci mandassero un messaggio con uno slogan: vado in vela perché? E così magari vediamo di capire qual è lo slogan più bello o quali sono gli slogan più frequenti. 824 0024 per intervenire. Abbiamo già Giorgio da Bologna. 349 238 6666 se volete scriverci il vostro slogan, ma che naturalmente potete lanciare anche in diretta. Giorgio, buongiorno. Buona giornata, partiamo subito con lo slogan. Bravo. Io vado a vela perché sviluppa la mia creatività, visto che sono uno scrittore e niente, la vela mi aiuta. La vela quello aiuta. Quello che volevo dire è che ho iniziato molto presto, ho più di 50 anni, ho iniziato intorno ai 6-7 anni. Sì. Per dire, mio padre, avevo 4 anni, mi portò sul moscone, mi buttò, mi diede un calcio nel sedere per vedere se sapevo già nuotare, ecco, per dire che tipo ero. Sì, gli è andata bene a suo padre, e anche a lei. L'esperienza non c'è niente di negativo, l'ho fatta su derive, su barche grandi, per un certo periodo ho portato in giro anche i turisti, ora in barca io ci vivo. E quello che è interessante è lo sviluppo del carattere, sì. Più che dello sforzo fisico, perché quello sì è importante, è molto formativo nel carattere. Esperienze negative mie personali nessuna, ne ho conosciute di persone che sono state traumatizzate e fondamentalmente quando me le sono ritrovate in barca il trauma arrivava sempre da un approccio sbagliato, pensare che la barca sia una panacea perché è tale e non è vero, oppure perché hanno incontrato qualcuno che gliel'ha imposta, tipo una moglie che doveva per forza seguire il marito o viceversa perché c'era la passione della vela. Ecco, quando la vela viene vissuto come imposizione, no, diventa un problema, perché poi è un ambiente comunque stretto, quando si è da soli ancora, sì. Ma già in diversi la promiscuità c'è e se uno non la sente diventa un problema. Farla amare non è facile. O si ama o... Grazie Giorgio per essere intervenuto. Io volevo un commento da Marzio e uno da Gabriele, perché Giorgio ha buttato sul tavolo tanti spunti. Marzio, cosa ti ha colpito di più? Ha continuato ancora un elogio. Aspettiamo una telefonata contraria, però... Diciamo che il messaggio è preciso, che deve partire dai bambini, da 7-8 anni in su, i ragazzini devono giocare, divertirsi in forma ludica, prendere questo bellissimo sport della vela, senza controindicazioni né fisiche né psichiche, assolutamente, in un ambiente assolutamente sicuro e protetto. Voi giustamente avete paragonato lo sport della vela al sport della montagna, e quindi regole, però con dei compromessi ludici per quanto riguarda i bambini. Se Gabriele può aggiungere qualcosa dal punto di vista meteo, che ne ha viste Gabriele, di tutti i colori, infatti, perché noi stiamo qui parlando di vela, relax, natura, bellezza, naturalmente regole, preparazione, ma immagino, io che non sono velista, che come succede proprio in montagna, anche in mare ci siano dei momenti in cui si può avere paura. Adesso Gabriele, lo dico a te che sei un professionista. Beh, sicuramente, io poi ho fatto della mia vita una regata, no? Nel senso che a me piace andare in barca, ma sotto dal punto di vista sportivo e agonistico. Quindi diciamo che quando si dice delle regole, degli ordini ben precisi, è molto autoritario come sport. Sì. Questo perché? Perché nel momento in cui ci si trova, come nel nostro caso quando abbiamo fatto il giro del mondo nell'Oceano del Sud, che ci sono di notte condizioni molto difficili durante una tempesta e viene un ordine da parte dello skipper, tu sai che devi eseguirlo senza neanche pensare. E soprattutto ci sono dei meccanismi all'interno della barca che viene poi con l'allineamento, eccetera, dove ci deve essere una sincronia di tutte le persone a bordo, per cui ognuno ha il proprio ruolo, ognuno sa cosa deve fare, anche se si è appena svegliato magari dopo un turno ed è ancora con la faccia un po' stropicciata, e anche se magari non è d'accordo, e anche soprattutto quando non è d'accordo, perché se ne può parlare, però se ne può parlare dopo, non certo in quel momento. Quindi è per quello che anche la vela viene molto spesso paragonata al mondo del del lavoro, perché c'è un ordine, c'è una struttura e si portano, diciamo, i vari manager piuttosto che i capi dell'azienda con i vari con le varie persone che lavorano a loro seguito e se li mettono in barca, ed è un bellissimo ambiente dove si possono sviluppare e capire perché un ordine a volte deve essere tale. Dottor Gonfalonieri, sì, lei che esperienza ha? Minima, in barca minima. Perché mi piacerebbe vederla in barca vela a eseguire gli ordini. Ecco, questo è un aspetto interessante, nel senso che nell'immaginario di tutti noi è prevalente l'idea della barca e della vela come un momento di libertà, come un momento di solitudine, come un momento di confronto con se stessi. Noi pensiamo più spesso al velista solitario, che non al team. Mentre c'è l'altro aspetto della vela, che è anche il più frequente, quello delle grandi barche, ma anche quello delle barche con relativamente poche persone a bordo, in cui c'è veramente l'esaltazione del lavoro di gruppo, del leader che guida gli altri, del rispettare il ruolo di tutti, e il ruolo di tutti è funzionale al fatto che la regata prosegua, che la barca vada, che si raggiunga l'obiettivo. E quindi questo è un aspetto estremamente interessante, estremamente formativo, estremamente educativo di questo sport, io credo. Marzio, è essenziale che si sappia nuotare bene. Sì, assolutamente, non è necessario che si sappia nuotare, anche perché i ragazzi hanno obbligatoriamente, nel momento in cui mettono il piede a bordo dell'imbarcazione, devono avere sì, la cintura di salvataggio assolutamente allacciata. Poi l'intervista su se sanno nuotare o non sanno nuotare dipende anche soprattutto dall'istruttore, affiancarlo, sì, e dargli sicurezza, perché non è quello assolutamente, non deve assolutamente succedere. Si può provocare come esercitazione, far vedere che la barca nel momento in cui scuffia sì, non affonda, affiancare il ragazzino e via dicendo. Quindi non è necessario proprio dire, anche perché è uno sport che ormai è stato inserito anche nel mondo dei disabili, sì, e quindi anche nel mondo del paralimpico. Allora non ci sono problemi, indossano tutti un aiuto al galleggiamento, quello che viene nominato. Noi abbiamo Francesco dalla provincia di Pavia, che voglio salutare e portare con me a sentire Mercati e il Meteo. Francesco, buongiorno. Buongiorno a voi. La vela è impensabile, ci sentiamo dopo il meteo, che è fantastico. Vede Francesco, era destino che ci incontrassimo. Francesco, eccoci. Eccoci, la mia barca si chiama Impensabile, adesso è come se l'avessi davanti ai miei occhi, perché ho davanti una bellissima immagine di Jean-Michel Folon, che in realtà questa barca che ho davanti non esiste, però è la mia, che adesso spero stia galleggiando ancora. Volevo dire due cose a proposito di quello che dà la barca. A me, chiaramente la barca vela è piccola, ho una bimba disabile che ho portato con me in barca, e in uno spazio così piccolo dove ha potuto cazzare delle cime, ha potuto vedere dei winch, ha potuto aiutarmi a issare le vele, sì, lei ha avuto una crescita straordinaria. Ho visto proprio una modifica della sua curiosità, del suo modo di vivere dopo questa esperienza che ho fatto con lei in barca vela, e invito tutti, anche manager o tutte le persone, a provare questa esperienza, perché è un'esperienza unica, in quanto è un po' una parodia della vita la vela. Ci si trova davanti al bel tempo, ci si trova con una burrasca in arrivo, è un po' quello che ci succede tutti i giorni. Trasportato, per questo vi invito a ricercare questa esperienza meravigliosa e soprattutto un'esperienza unica. La vita di tutti i giorni è fatta spesso di banalità, di consuetudini, ecco, rompiamo questi schemi e soprattutto condividiamoli con gli altri, che è una cosa meravigliosa. Io ci vedo molto infinito e molto impensabilità, lasciatevelo dire. Grazie, grazie a lei Francesco. E Silvano ci scrive: vado a vela perché, come nella vita, dopo la bonaccia arriva sempre il vento fresco. Gabriele, a proposito di vento, una delle grandi incognite di chi va per mare è il tempo. Allora io volevo chiedere a te, che di mari ne hai visti un po', ti stavo dicendo, di tutti i colori, ma non ci sono delle strategie da seguire, degli errori da evitare, delle cose da non fare? Quello, la prima cosa che si insegna quando si va in barca, soprattutto alle scuole ai bambini, è quello del rispetto, rispetto per la natura, e il paragone viene poi sempre spontaneo quando ci si allontana dalla terraferma, che si vada in montagna o in mezzo al mare, la cosa più importante è sempre il rispetto per quello che succede, sì. Mai pensare che l'uomo può prevalere sulla natura, e quindi diciamo che ci sono sempre quelle regole da rispettare. Anche perché poi il mare può cambiare all'improvviso. Cambia sempre, come il tempo in montagna cambia, certo. Sempre, puoi trovarti in condizioni meravigliose dove hai del vento, bel sole, eccetera, mm-hmm. E dopo qualche ora ti puoi trovare in mezzo, come si diceva, a una tempesta. Ecco, ma se tu dovessi, tu che sei un campione, un professionista, dare proprio un'indicazione per chi muove i primi passi in vela, insomma, che cosa ti senti di dire? Ma senti di dire semplicemente di avere sempre il timore e il rispetto per la natura, mai pensare di poterla sovrastare. Quindi fare una cosa in meno, tenersi un passo indietro, piuttosto passo in meno, sempre tenere a rischio che sia da solo in barca o con varie persone, avere sempre la sicurezza come prima regola. Marzio, voglio salutare Stefano da Milano e poi vorrei però parlare con te della difficoltà, insomma, voi la fate tutta naturale, tutta bella, eccetera. Io ho provato, io sono assolutamente con tutti quei nomi, tutti quei cordini, dottor Confalonieri, vedo che lei non dica facile, anche lei non la è sua, facile, perché obiettivamente ci sono delle difficoltà tecniche iniziali da non trascurare, che magari allontanano anche le persone da questa esperienza. Sarà magari, noi siamo magari stati poco fortunati e non abbiamo fatto il corso giusto, però devo dire che... Stefano da Milano, buongiorno. Buongiorno, io purtroppo mi devo iscrivere nella lista di coloro che con la vela non riescono a trovare questa panacea e questa pace dei sensi, perché purtroppo io mi sono avvicinato alla vela per curiosità un anno in cui ero in un villaggio vacanze e ho fatto un corso. Beh, è un po' il classico, no? Che facciamo. Classico, solo che il giorno in cui ci hanno messo in barca, dopo il canonico corso di nuoto, i nodi, eccetera, eccetera, insomma, praticamente ci siamo schiantati contro gli scogli. Quindi, non vi siete fatti male, ma immagino che, insomma, questo succede circa 25 anni fa. Poi mi sposo. Mia moglie è patita di vela, mi costringe praticamente il primo anno di matrimonio, ma si sa che il primo anno di matrimonio è un anno un po' in cui tutto sì. è possibile, sì. mi costringe a fare un corso di vela in Sardegna. Allora, sì. A parte il fatto che quando ci presentiamo al corso eravamo noi e gli altri frequentanti erano bambini dai 6 ai 10 anni. Quindi sì, e questo anche sì, che magari uno si sente un po' ripetente. Io ho fatto un errore enorme di presunzione, perché mia moglie mi ha preceduto nell'andare sulla barca, nello stare in barca, io ho visto lei che ce la faceva, io ho detto se ce la fa lei ce la faccio anch'io. Non l'avessi mai detto, ho scuffiato 4 volte, alla quarta volta io, se non avessi avuto il giubbotto salvagente, io mi sarei lasciato andare in acqua, perché ero completamente privo di forze. Da quel momento ha detto vabbè, faccio altro. Esatto. La moglie però ce l'ha ancora. Ah, la moglie ce l'ho ancora. Ah, va bene, quindi... Se fosse per lei, noi faremmo sempre i corsi di vela. Quell'anno lo ha fatto lei per 2 settimane invece che tutti e 2 per una. Diciamo. Magnifico, vede che ci sono sempre dei vantaggi a saper vedere le cose. Marzio, allora, io ti avevo già provocato dicendo non è semplice, perché io sono particolarmente... Ma diciamo che la vela... è una disciplina che deve essere presa a piccole dosi, va digerita lentamente e ci si deve affidare nelle scuole di vela dove sono state affiliate la Federazione Italiana Vela. Sono più di 600 le scuole vele affiliate, dove hanno dei istruttori certificati e chiaramente hanno un iter, un programma molto lento, che questo iter, quel processo di apprendimento può accelerare a seconda delle condizioni meteo o a seconda anche dell'allievo, di come recepisce, come digerisce un pochettino la vela, ma non si possono assolutamente bruciare le tappe, bisogna rispettare i loro tempi, assolutamente. aiuta molto quelle che possono essere le capacità coordinative di una persona, se ha più abilità, se ad esempio pratica un'altra disciplina un po' simile dove sono coinvolti degli equilibri tipo lo sci, lo snowboard, questi ragazzi giovani, lo skateboard, chiaramente questi ragazzi sono più avvantaggiati, sono molto più avvantaggiati. L'adulto dovrà frequentare una scuola dove troverà chiaramente non scuola per bambini ma scuola per adulti delle imbarcazioni più consone, perché uno dice magari vado in quella dei bambini, faccio un po' la figura del ripetente, però vanno piano. Dottor Compagno Neri, chissà mai se troveremo una scuola per noi due. No, la nostra speranza è trovarla col bel tempo, perché se si uniscono i nostri limiti al cattivo tempo, però noi andiamo tempo a nuoto. Lento di marzo diventa infinito, noi però ci buttiamo e nuotiamo. Però c'è chi sulla barca non sale per il problema del mal di mare. Dottor Confalonieri, che l'abbiamo provato tutti, non so se Gabriele e Marzio l'hanno provato anche loro, immagino di sì. Gabriele? Per quanto mi riguarda, fortunatamente non soffro il mal di mare. Però ecco, devo portare un esempio, che per esempio nell'ultimo giro del mondo che abbiamo appena concluso l'anno scorso, uno dell'equipaggio soffriva di mal di mare. Per cui è una cosa comune, non è una cosa che esclude o prelude il fatto di andare in barca. È chiaro che chi ha problemi di mal di mare è perché ha problemi di equilibrio, quindi ha problemi magari anche sta male quando auto, va in barca o in aereo, e quindi la cosa più semplice è quella di stare all'aria aperta, vedere quando hai mal di macchina, ti dicono ma stai davanti, e c'era, almeno me lo dicevano quando ero piccolo, cerca di guidare, no? Scusa Gabriele, qual è per uno che soffre il mal di mare la posizione da tenere in barca? Dove si mette? All'aria, giù, steso, dritto? Cerca di mettersi nel pozzetto, dove sei un po' più riparato, meglio se il pozzetto è centrale che dove c'è il centro di rotazione della barca, ma insomma diciamo in un posto dove non si muove più di tanto, stare all'aria aperta, quindi avere l'orizzonte a sua portata e cercare di tenersi caldo, che è la cosa più importante. Ecco, tenersi caldo, poi sappiamo che c'è la dieta, i lupi di mare dicono mangiate secco, mangiate salato, ci sono anche i farmaci, quelli contro il mal di spostamento, ma insieme al dottor Marco Temporin, medico nutrizionista specialista in igiene e medicina preventiva, vogliamo sapere se ci sono anche dei rimedi naturali per chi vuole andare in mare, ha questo problema e non vuole usare i farmaci. Dottor Temporin. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. I rimedi ci sono, allora diciamo che vi è un rimedio che ci arriva direttamente dall'omeopatia, che viene denominato Coculus, che sta di coccola, il quale ha un'azione spasmolitica, quindi è veramente mirato nelle sindromi vertiginosi, nella cinetosi, quindi nel mal di mare. La cosa positiva è che non ha effetti collaterali, non induce sonnolenza e non è influenzato dall'utilizzo dell'alcol, che comunque è sconsigliato assolutamente, soprattutto per chi va. Fitoterapia, rimedi naturali della nonna, altro, proprio un piccolo flash per dare un'alternativa? In fitoterapia noi utilizziamo la Melissa officinalis, la quale ha un ottimo effetto miorilassante. Esiste un prodotto in soluzione idroalcolica molto concentrato denominato spirito di Melissa, il quale applicato frizionandolo nei polsi, nelle tempie e anche inalato sotto il naso ha un effetto miorilassante, quindi aiuta ovviamente le persone a stare più rilassate e di conseguenza a sentir meno questo fastidio. Io saluto il dottor Marco Temporin, Gabriele Oliva, Marzio Braida, ringraziandoli per essere stati con noi. Grazie a voi, buon grazie. Mare si dice? Buon vento! E cambiamo decisamente pagina, parliamo di sclerosi multipla. È in corso, si concluderà domenica 30 maggio, l'undicesima edizione della settimana nazionale dedicata a questa malattia, di cui il 26 maggio scorso è stata celebrata la giornata mondiale. Questo è sicuramente un appuntamento importante per il mondo scientifico, un'occasione per fare il punto sui maggiori campi della ricerca, dalle cellule staminali alla genetica, all'eziopatogenesi di questa malattia, che sapete colpisce prevalentemente le giovani donne, dato che si manifesta tra i 20 e 40 anni. Ma ci sono buone notizie. In linea con noi abbiamo il professor Giancarlo Comi, professore di neurologia al San Raffaele di Milano. Professore, benvenuto, grazie. Buongiorno. Professore, la strada è ancora lunga per arrivare alla meta, curare la sclerosi multipla, ma possiamo dire che siamo a buon punto? Beh, direi che questo è un anno particolarmente felice e fruttuoso. Abbiamo ormai prossimi all'introduzione nell'uso quotidiano due nuovi farmaci con una potenza d'azione molto importante, che sicuramente presentano anche il vantaggio di essere assunti per via orale, quindi questo vuol dire una qualità di vita migliore per i nostri pazienti, e sicuramente con questo cambia l'orizzonte terapeutico. Fino ad oggi noi ci proponevamo di ridurre la frequenza degli attacchi, di rallentare l'evoluzione della malattia, oggi possiamo essere più ambiziosi, possiamo sperare di riuscire addirittura a bloccare la malattia, forse non in tutti, forse non subito, ma ripeto, è un cambiamento d'orizzonte. Professore, ci sono altre novità, altre strade che si stanno percorrendo? Abbiamo alcune altre direzioni interessanti da sottolineare. Una prima direzione interessante è costituita dall'uso di cellule per somministrate per via endovenosa o anche per altra via per cercare di migliorare l'evoluzione della malattia. Interessanti sono anche gli studi sulle cause della malattia. Da questo punto di vista gli studi sugli effetti ambientali, la carenza di vitamina D, la scarsa esposizione al sole, l'abuso di fumo, sono tutti elementi di grande interesse. Nella stessa direzione vanno anche gli studi sul possibile ruolo di alterazione della struttura della parete venosa, dei vasi che fanno defluire il sangue dal cervello verso il cuore, dovuti a un ricercatore italiano, il dottor Zamboni, che ovviamente apre una prospettiva di un possibile ruolo nell'ambito della evoluzione di questa malattia. Ovviamente studi che richiedono una valutazione estremamente attenta, sicuramente assolutamente prematuro qualsiasi trasferimento a procedure chirurgiche in questa fase, e da questo punto di vista infatti l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la Federazione Italiana Sclerosi Multipla hanno promosso uno studio che coinvolgerà i migliori centri del paese e di cui ovviamente sarà parte attiva lo stesso dottor Zamboni, che si propone proprio di valutare che rapporti esistano tra queste presunte alterazioni delle pareti venose e il rischio di ammalare di sclerosi multipla o di ammalare in una forma più grave di sclerosi multipla. Come sempre tutti siamo molto attenti e molto confidiamo in queste valutazioni. In linea con noi abbiamo il professor Antonio Uccelli del Dipartimento di Neurologia dell'Università di Genova e del Centro di Biotecnologie Avanzate, che coordina lo studio sulle cellule staminali mesenchimali a cui accennava il professor Comi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Da quanti anni state lavorando a questa ricerca? Ormai sono quasi 10 anni che ci occupiamo di cellule staminali mesenchimali e grazie al supporto della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla siamo riusciti a comprendere che queste cellule sono in grado di modulare la risposta autoimmune che danneggia la mielina e al contempo negli ultimi anni a comprendere anche che sono in grado di rilasciare dei fattori trofici e di supporto che favoriscono la sopravvivenza delle cellule del sistema nervoso. Quindi professore, la funzione di queste cellule staminali mesenchimali è duplice? Sì, esattamente questo, sono delle cellule che ragionevolmente possono aiutarci a bloccare o quantomeno rallentare l'avanzamento della malattia e diversamente da quanto fanno i farmaci già disponibili che sono assolutamente hanno un'efficacia sempre più alta, potrebbero, se riusciremo a dimostrarlo anche nell'uomo, potrebbero fornire realmente un effetto di tipo neuroprotettivo. Certamente quello che abbiamo scoperto è che tuttavia non sono in grado di riparare il tessuto quando questo è stato già danneggiato in maniera irreversibile. Certamente è ragionevole che noi si possa trattare dei pazienti che sono ancora con una malattia attiva e che allo stesso tempo ovviamente non abbiano risposto alle terapie tradizionali attualmente disponibili, ma che come dicevo prima non abbiano raggiunto un grado di diciamo di disabilità e di cronicizzazione della malattia troppo avanzata, perché evidentemente in questo tipo di pazienti non avremo più la possibilità di proteggere il tessuto, ma evidentemente dovremmo invece rigenerarlo. In questo momento queste cellule non sono capaci a farlo. Professore, i pazienti sono già stati arruolati? No, i pazienti non sono stati ancora arruolati. Questo è uno studio che dovrebbe coinvolgere molteplici paesi in Europa e nel Nord America. Ogni Stato è nella fase di preparazione del dossier che dovrebbe essere poi approvato dagli enti regolatori. Noi ci accingiamo a sottoporre il nostro dossier all'ente regolatorio italiano nella speranza di poter iniziare fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, se appunto otterremo l'approvazione. Bene, allora, prima di salutarci, professor Comi, lei ad una giovane donna che ha scoperto da poco la malattia, che cosa si sente di dire? Che oggi veramente può guardare con molto, ma molto più fiducia al futuro, soprattutto quando noi scopriamo la malattia, possiamo iniziare la terapia molto precocemente, siamo in grado di giocarci la partita con enorme possibilità di successo. La paziente o il paziente che scopre di avere questa malattia non deve più pensare alla malattia nei termini con cui si pensava qualche anno fa. Oggi siamo veramente in grado di giocarci benissimo questa partita, quindi un grande ottimismo, il grande ottimismo della volontà. Ovviamente bisogna curarsi con le medicine riconosciute nella loro efficacia. Nel nostro paese la qualità dell'assistenza, posso dire, è veramente tra le migliori esistenti al mondo, quindi uno deve avere molta fiducia. Professor Uccelli, che cosa direbbe invece lei ad un malato che vive con la sclerosi multipla da anni e che fa i conti con i danni che la malattia gli ha provocato? Credo che anche queste persone debbano avere fiducia. Certamente le nostre conoscenze sui meccanismi che causano la disabilità stanno facendo passi da gigante e certamente ci avviciniamo sempre più a poter proporre in terapia dei trattamenti che cerchino di diciamo di colpire o di in qualche modo intervenire su questi processi. Le cellule staminali sono in veramente all'inizio della loro storia come possibilità terapeutica. In questo momento ci preme dimostrare che sono efficaci su qualche cosa che ragionevolmente la sperimentazione in laboratorio ci ha permesso di dimostrare sono capaci di fare. L'obiettivo futuro sarà quello anche di tentare di riparare quanto è già stato danneggiato. Professor Uccelli, la ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Buon lavoro e buona giornata anche a tutti voi, grazie. Professor Comi, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, buona ricerca, buon convegno. Grazie professor Comi. Grazie a lei, arrivederla. E per questa puntata è tutto, vi ringrazio per essere stato con noi, appuntamento a domani per Questa casa non è un albergo e lunedì sempre con la salute dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.